Quando Davide si stabilì nella sua casa, disse al profeta Natan: «Ecco, io dimoro in una casa di cedro, mentre l'arca dell'alleanza del Signore si trova sotto una tenda». Natan rispose a Davide: «Fa quanto hai intenzione di fare, perché Dio è con te». Ma in quella stessa notte la parola di Dio fu rivolta a Natan in questi termini: «Va a dire a Davide, mio servo, così parla il Signore: non sarai tu a costruirmi la casa in cui abitare. Difatti, non ho mai abitato in una casa dal giorno in cui feci uscire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Passai da una tenda ad un'altra, da una dimora all'altra. Per tutto il tempo in cui ho peregrinato insieme a tutto Israele, ho forse detto a qualcuno dei giudici di Israele, cui avevo ordinato di pascere il mio popolo: perché non mi costruite una casa di cedro? Ora, così dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo dietro al gregge, per costituirti principe sul mio popolo d'Israele. Sono stato con te in tutte le tue imprese, ho sterminato davanti al tuo cospetto tutti i tuoi nemici. Ti farò un nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Troverò un posto per il mio popolo d'Israele, ivi lo pianterò, e vi dimorerà senza che sia più sballottato, ed i malvagi continuino a molestarlo, come per il passato, da quando ho stabilito i giudici sul mio popolo d'Israele. Umilierò tutti i tuoi nemici, mentre renderò grande te. Infatti, il Signore ti costruirà una casa. Quando si compiranno i tuoi giorni, sì che tu vada a raggiungere i tuoi padri, stabilirò dopo di te un tuo discendente, uno dei tuoi figli, e consoliderò il suo regno. Costui mi costruirà una casa, mentre io renderò saldo il suo trono per sempre. Io sarò per lui un padre, ed egli sarà per me un figlio. Non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho rimosso dal tuo predecessore. Lo farò stare per sempre nella mia casa, nel mio regno, ed il suo trono sarà stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide venne ad assidersi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, o Signore Dio, e che cosa è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fino a qui? Eppure ciò è apparso poco ai tuoi occhi, o Dio, ed ora tu fai promesse alla casa del tuo servitore per il futuro, e mi hai considerato come si considera un uomo di alto rango, o Signore Dio. Che cosa potrebbe ancora aggiungere Davide alla tua gloria? Tu conosci il tuo servitore. Signore, a causa del tuo servitore, e secondo il tuo cuore, hai compiuto quest'opera straordinaria per far conoscere tutte le tue grandezze. Signore, non c'è nessuno simile a te, e all'infuori di te non esiste Dio, in base a tutto ciò che abbiamo udito con le nostre orecchie. C'è sulla terra un solo popolo come il tuo popolo d'Israele, che Dio sia andato a redimere per farne il suo popolo e acquistarsi un nome grande e tremendo? Tu hai scacciato le nazioni davanti al tuo popolo che hai redento dall'Egitto. Hai deciso che il tuo popolo d'Israele fosse il tuo popolo per sempre, e tu, Signore, sei stato per loro un Dio. Ed ora, o Signore, la parola che hai pronunciato sul tuo servitore e sulla sua famiglia rimanga salda per sempre. Fa come hai detto, sia saldo e diventi grande il tuo nome per sempre, onde si possa dire: il Signore degli eserciti è Dio per Israele, e la casa di Davide, tuo servitore, sarà stabile davanti a te. Sì, tu, o mio Dio, hai fatto una rivelazione al tuo servitore, che gli avresti costruito una casa. Per questo il tuo servitore ha trovato il coraggio di pregare al tuo cospetto. Ora, tu, o Signore, sei Dio, ed hai promesso questo bene al tuo servitore. Pertanto ti sei compiaciuto di benedire la casa del tuo servitore, perché sussista per sempre al tuo cospetto, perché, Signore, quanto tu benedici, sarà benedetto in eterno.